Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, il degrado della situazione politica ed economica è sotto gli occhi di tutti. Ma mentre della situazione economica siamo parzialmente responsabili, si veda la globalizzazione, ad esempio, di quella politica lo siamo totalmente. Sono sinceramente rattristato dagli ultimi eventi della situazione liste regionali. Il governo ancora una volta ha dimostrato che se le cose le vuole fare, le fa. Quindi l'immobilismo su tutto il resto, che riguarda il 99,5% della popolazione, non è giustificato, soprattutto alla luce della schiacciante maggioranza. Secondo me, nella nostra nazione cambierà qualcosa di sostanziale soltanto con il forte contributo esterno, come è stato fatto per l'entrata nell'euro. Mi spiego meglio. Sappiamo benissimo quasi tutti quali sono le cose che non vanno nel bilancio italiano, ma nessuno muove un dito. Ecco, io sostengo che un giorno ci troveremo come si sta trovando oggi la Grecia, e quando verrà quel momento, si faranno le riforme che per 40 anni non sono mai state fatte. Non sarà come l'Argentina, ma come la Grecia, con la quale abbiamo molte somiglianze dal punto di vista economico-sociale. Alto statalismo, potenza influente del sistema sindacale, altissima evasione fiscale. I mali delle economie del 2000. Ho 42 anni, sono una persona ottimista per natura. Però sono anche realista, e seguendo le vicende politico-economiche del mondo, trovo che la nostra salvezza non possa che giungere dal Fondo Monetario Internazionale, o da una struttura equivalente, quando sarà il momento. Fino ad allora faremo come sempre. Galleggeremo. Gabriele, Firenze. Caro Gabriele, la crisi economica degli ultimi mesi ha sicuramente complicato le cose. E l'Italia, che già aveva tassi di crescita più bassi degli altri paesi europei, si è ritrovata ancora più debole, a combattere quasi una guerra di posizione, soprattutto in difesa. Ma non parlerei di immobilismo. Qualcosa si è fatto, anche se in maniera timida e contrastata. Pensiamo alla riforma della scuola o a quelle della pubblica amministrazione. Piccoli passi che non possono avere effetti immediati, al di là dei giudizi di merito che ciascuno può dare. Lei, caro Gabriele, ritiene che ci sia bisogno di una forte pressione esterna per convincere l'Italia a muoversi e a fare le riforme. Non sono d'accordo, anzi, spero che ciò non avvenga, perché vorrebbe dire mettere l'Italia sotto tutela, in amministrazione controllata, riducendo necessariamente il grado di libertà e di scelta. La mia speranza è un'altra, che l'Italia sappia trovare in se stessa la forza di reagire, sappia porre fine alle contrapposizioni esasperate, sappia ritrovare quell'unità necessaria per privilegiare il bene comune all'interesse dei singoli. Certo, le premesse per questa svolta non ci sono e anzi le ultime vicende politiche hanno dimostrato come ci sia più la ricerca di ogni occasione per dividersi che un minimo sforzo per fare un passo verso una direzione comune. Ma non possiamo rinunciare alla speranza, soprattutto perché gli italiani sono molto migliori della classe politica che li rappresenta. Non è una barzelletta che nella Repubblica Italiana esista un'imposta che si chiama canone RAI. È la denominazione che l'illuminato e fantasioso legislatore ha dato a tale imposta. Ma avrebbe tranquillamente potuto chiamarla anche Giuseppe o Nicoletta. È un'imposta che deve essere corrisposta da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. La legge dice che i possessori di detti apparecchi sarebbero comunque tenuti al pagamento del canone anche qualora, per ipotesi, non vi fosse più un concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo. E non è una barzelletta che nella Repubblica Italiana avvenga un sorteggio a premi tra tutti coloro che pagano puntualmente l'imposta. E non è una barzelletta nemmeno che nella Repubblica Italiana, per decenni, nell'alternanza di governi di opposti schieramenti, nonostante i ripetuti solleciti delle agenzie delle entrate, delle associazioni dei consumatori, di semplici cittadini, né il Ministero delle Finanze né il Ministero delle Comunicazioni siano riusciti a definire quali siano gli apparecchi adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive e quindi assoggettabili all'imposta. Nel grande dilemma in cui si dibattono i tecnici e i consulenti del Ministero, rientrano, oltre ai computer, anche i videocitofoni. Quanto sopra, per buona pace della professoressa Margherita Hack e per tutti coloro che pro o contro Santoro e Company pensano di potersi autoridurre il canone, come genericamente chiamato, o l'abbonamento, come lo chiama la RAI quando, per confondere ulteriormente le idee, ne pubblicizza la sottoscrizione. Paolo. Ai cittadini che si chiedono come mai solo la sinistra si arrabbia per l'interruzione dei programmi televisivi politici della RAI, rammento che queste trasmissioni e i loro conduttori strapagati sono a carico di tutti i cittadini. Come cittadino mi rimane il boccone in gola quando penso che sono obbligato a pagare una tassa per sentire e vedere la faziosità. Era meglio quando c'erano le vecchie tribune elettorali. Almeno si parlava di programmi e non si facevano processi mediatici solo in una direzione. Anche se sicuramente dall'altra parte vi sono cose da non far sapere. Bersani sta attaccando il governo dicendo che non fa nulla per gli stipendi e per le pensioni. È vero, ma lui 2 anni fa, quando questi problemi erano presenti, non era forse al governo? E cosa ha fatto? Nulla. E non c'era nemmeno la crisi economica mondiale. E poi, è vero o non è vero che qualche anno fa l'Italia dei Valori non presentò in tempo la lista nella circoscrizione di Trieste, ma la magistratura la riammise per interesse superiore, cioè quello di far votare il cittadino? Cosa c'è di diverso con la situazione attuale? Adolfo da Firenze. A proposito di Aldo Busi, io credo che fosse tutto premeditato. La televisione muove un sacco di interessi e tanti sacchi di soldi, e in questa vicenda tutti hanno ottenuto ciò che volevano. Dirigenti RAI, autori, conduttrice e lo stesso Aldo Busi hanno fatto solo il loro mestiere. Lo so che è troppo riduttivo, ma è così squallidamente semplice trattare i telespettatori da beoti. Nel ventennio si dava l'olio di ricino, oggi si dà questa televisione demenziale, con il telecomando per scegliere tra la stupidità. Antonio da Taranto. Perché non si può criticare il Papa o la pedofilia tra i preti? Busi ha ragione, lo dico da cattolico. Antonio. Ricordo che Aldo Busi è anche quello che nel 96, ospite di Maurizio Costanzo, esaltò esplicitamente la pedofilia con espressioni criminali. Avete ragione quando dite che chi sceglie Busi sa quello che deve aspettarsi, però Busi non è solo l'anticlericale, l'omosessuale, il laicista. Busi è anche l'esaltatore della pedofilia e questo risulta palesemente da un video del 96 che si può vedere su YouTube. Marco. Da un telegiornale ho sentito la notizia che un tizio, ex funzionario regionale, ha ottenuto dalla regione Sicilia, la mia terra di nascita, una pensione di 476.000 euro all'anno. Pensione che è stata calcolata con i parametri degli ultimi anni di stipendio. Mi domando, quanti contribuenti, dipendenti e autonomi ci sono voluti per mantenerlo con questo stipendio fino a ogni 27 del mese? E quanti ce ne vorranno per pagargli 1.300 euro al giorno sino a che il creatore non lo chiamerà a sé? Carmelo, Alessandria. Scrivo a proposito della misera pensione ottenuta dall'alto funzionario della Regione Sicilia. D'ora in poi, quando ci si chiederà a cosa serve pagare le tasse, sarebbe opportuno aggiungere a scuole, ospedali, eccetera, a pagare la pensione a questo signore. Una provocazione. Radio 24, nel periodo della vendita di Alitalia, molto giustamente sottolineava ogni giorno quanto avrebbe perso quel giorno la nostra ex compagnia di bandiera. Non si potrebbe quindi inserire nelle vostre trasmissioni un analogo inciso riguardante la pensione di questo tizio? Marcello. Se in Italia abbiamo innalzato l'età della scuola dell'obbligo, se alla fine del liceo è più stimolante iscriversi all'università e se rispetto a decenni fa ci sono quindi molti più diplomati e laureati, come si fa a chiedere loro di andare a fare i lavori più umili, anziché cercare di seguire i propri progetti professionali? E poi ci compiacciamo che sia scomparso il vecchio sistema dell'ufficio di collocamento, quando domanda e offerta dovevano confluire solo su quell'agenzia. All'epoca però lo Stato si faceva garante di filtrare le assunzioni e solo quando la disoccupazione arrivava a livelli fisiologici si facevano entrare in Italia lavoratori stranieri. Ed è assolutamente vero che loro si abbassano a fare tutto a qualsiasi contribuzione, dato che non hanno niente da perdere. E fino a quando li facciamo vivere nei loro paesi tra fame e guerre, dobbiamo aspettarci di tutto. Roberto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.